Sono io che ringrazio ovviamente dell'onore che mi è stato dato e quindi così sono grato a Monsignor Roger dell'occasione che è stata per me e per tutti noi, penso poi sarà, ha già cominciato con l'introduzione di Monsignor Roger, di riflessione su questo problema. Il mio intervento sarà un intervento direi di cornice, non di interno, non di quadro, insomma, ecco, ovviamente. Questo in generale perché le presentazioni dei libri io le interpreto sempre più come una festa che non come un'analisi interna. Il libro c'è, la gente se lo studia, se lo legge, se lo deve meditare e non c'è nessuna esposizione riassuntiva che possa sostituire la lettura, specie di opere come queste che sono evidentemente il frutto di un lavoro filologico, di edizione, eccetera. Quindi dicevo il mio compito è quello di cornice e quello di appunto dire qualche altra parola in aggiunta a quello che ha detto Monsignor Rogge sul tema delle visite pastorali, perché è molto importante. Ecco, ritengo che questo sia uno dei temi centrali e che merita una riflessione e anche una così una piccola, non dico divagazione, ma insomma appunto una piccola cornice per sottolineare appunto l'importanza e la positività dell'opera. Beh, le visite pastorali, certo, erano quelle che normalmente il vescovo, il suo delegato, faceva appunto alle comunità, alle parrocchie, anche chiese non di cura d'anime della propria diocesi, che una tradizione che rimonta diciamo al V-VI secolo, come già norma introdotta nella Chiesa. Dico questo solo perché il professor Ratisarda, della facoltà di lettere, presentò a Etido i sermoni di San Cesario di Ars, in cui appunto San Cesario racconta, sono sermoni fatti proprio già, siamo all'inizio del VI secolo, in visita pastorale. E quindi in qualche modo le visite sono parallele alla cristianizzazione delle campagne, ecco, sono una cosa coerente che però appunto nel Medioevo, in seguito alla feudalizzazione dell'apparato ecclesiastico, in seguito al trico delle esenzioni, delle giurisdizioni eccetera, va da una parte formalizzandosi sempre di più nei canoni delle varie collezioni fino ad arrivare alle grandi collezioni canoniche, dall'altra formalizzandosi in modo sempre più burocratico, esterno, notarile, insomma, come una prevalenza all'attenzione rivolta ai benefici ecclesiastici, alle strutture economiche e giuridiche, insomma, a scapito quindi dell'attività pastorale. Da questo punto di vista la svolta del Concilio di Trento nel decreto terzo di riforma della 24esima sessione rappresenta un ritorno appunto alla prassi dell'antica cristianità o della cristianità dei primi secoli, cercando nella delibera che impone ai vescovi la visita ogni anno o se la diocesi è grande ogni 2 anni a tutta la diocesi, di far entrare la visita appunto nei canali della tradizione, tra virgolette, della Chiesa, cioè della cura dell'anima, della pastoralità, della presenza, del contatto appunto tra il vescovo e la comunità della diocesi. Quindi rappresenta da un punto di vista una grossissima innovazione, perché le visite erano andate man mano decadendo nel tardo Medioevo e praticamente come testimonia il fatto che questa visita chiesiana è dell'epoca pretitentina l'unica conservata, questo è una testimonianza di come l'istituto della visita fosse degradato e appunto come e nello stesso tempo è anche una innovazione questo decreto tridentino, perché implica proprio un ripensamento della visita più su un piano pastorale che appunto su un piano giuridico formale, anche se il piano giuridico continua a essere sempre importante come in tutte queste tipologie di fonti dell'età moderna. Quindi le visite si sono moltiplicate appunto nell'età tridentina, anche se francamente conosco pochissimi casi in cui la visita nel periodo post-Trentino abbia seguito lo schema del decreto, cioè vescovi che abbiano visitato la diocesi ogni anno, praticamente non ne conoscerei, francamente. Ecco, però certamente insomma è stata un'intensificazione, insomma, ecco. E quindi si tratta, come vedremo però, di una intensificazione che si riflette appunto anche nel tipo di materiale, ovviamente, ma appunto parliamo un po' della visita pastorale come fonte. In Italia penso che si possano contare a migliaia le visite pastorali, cioè gli atti di visita, per usare l'espressione formale più esatta, conservati negli archivi diocesani italiani. Io penso che si possa valutare appunto a oltre il migliaio, ma è una valutazione totalmente empirica, totalmente provvisoria, perché in realtà la situazione degli archivi ecclesiastici, con un'eccezione per Trento, che credo vada sottolineata, perché l'archivio di Trento è stato riordinato, è una situazione abbastanza disastrosa. Tant'è vero che pensando allo 0,8 come, ecco, futuro, dico, facciamoci stare anche gli archivi che tengono tanto della storia, del patrimonio italiano. Pensiamo anche in qualche modo ai doveri che ci sono di conservazione, insomma, di un'anima che è anche appunto nelle carni. Ad ogni modo, questo per dire che queste migliaia di pezzi, diciamo, di visita rappresentano un patrimonio unico, appunto, come panorama non solo della vita religiosa, ma anche della vita sociale, demografica, economica, delle strutture d'assistenza, eccetera, eccetera, dell'Italia, in particolare per i secoli XVI e XVIII, come diceva il nostro Roger, perché ovviamente dopo la Rivoluzione francese, con il progredire dei metodi di archiviazione e delle strutture burocratiche statali, ovviamente perde di importanza la visita pastorale come fonte per la vita civile, quell'importanza che invece nei secoli precedenti ne fa l'unica testimonianza, l'unica esistente, l'unico tipo di fonte che conosco che possa dare appunto un panorama della situazione storica delle nostre città e delle nostre campagne, un quadro complessivo della società. Non parliamo poi dell'importanza per la storia della Chiesa, appunto, della diocesi come comunità e delle parrocchie. È uscita l'anno scorso una bibliografia sulla storia delle pievi e parrocchie in Italia, che ho presentato proprio a Bologna una settimana fa, e per Trento questa bibliografia presenta 84 titoli, quindi una discreta ricchezza di pubblicazioni che sono state fatte sulle parrocchie, sulle pievi trentine. Ecco, chi però scorre questa bibliografia di 84 titoli vede che tipo di frammentarietà è derivata proprio da una mancanza di contatto con le fonti, da questo tipo di approccio. Si va, per carità, dagli studi bellissimi su particolari appunto di restauri e di sistemazioni, agli studi più così panorama come quello di Cetto che ricordava prima Monsignor Roger, ma appunto sono, non so, ecco, come dire, ecco, briciole di un terreno che è tutto da fare, cioè si incomincia da zero, ecco, non per appunto una svalutazione di quanto è stato fatto, ma perché il mettere le fonti appunto come base di un lavoro organico, per forza, credo, ecco, e spero possa cambiare il nostro modo stesso di lavorare, il nostro modo stesso di fare ricerca. Ma qui si entra proprio anche in una strozzatura complessiva del mondo della ricerca italiana, in cui non voglio farvi perdere tempo, ma un accenno penso che sia opportuno. Ecco. Cioè noi abbiamo delle strutture che possono al massimo impedire la distruzione di queste fonti, ma non ne facilitano, non ne sviluppano l'uso, non ne sviluppano la utilizzazione. Cioè in Italia mancano tutte quelle strutture storiche che implichino un lavoro di tipo collettivo, un lavoro di tipo, diciamo, che superi l'artigianalità del lavoro del singolo storico. Ecco, questa è una riflessione molto generale, ma che credo viene spontanea di fronte a un'impresa come questa, che invece richiederebbe, per essere condotta in modo organico, ecco, l'eliminazione proprio di queste strozzature per arrivare alla costituzione organi appunto che possono dare questa piattaforma su cui poi gli storici lavorano. E qui appunto entriamo in questa differenza anche dal punto di vista così dell'elaborazione del lavoro da fare, delle visite pretidentine e delle visite post-tridentine, su cui c'è una discussione in campo. Sulle visite pretridentine, che sono appunto poche e hanno anche una, di solito, una formulazione molto stringata, proprio anche come carattere notarile di visita, tendente più appunto agli aspetti giuridici, formali, che molto che non agli problemi pastorali, anche se in questa visita di Clesio si sente già un po' di respiro, di soffi, di brezza, qua e là, ecco, attraverso il tessuto burocratico notarile si sente una certa attenzione nuova agli uomini e non soltanto ai beni o alle cose. Ma dicevo, c'è proprio una differenza di qualità e quantità se pensiamo appunto alla visita del cardinale Ludovico Madruzzo, a cui accennava prima Monsignor Roger e sulla quale sta lavorando già da un paio d'anni la dottoressa Nubola, appunto, che è di borsista nei nostri istituti intercomunicanti. Ecco, credo che a quantità si possa andare da 1 a 10, grosso modo, a occhio. A occhio. Questo è tra due visite che sono tra loro distanti nel mezzo secolo. E quindi di qui il problema appunto della diversa trattazione, e io condivido appunto l'edizione completa, questo per dire in termini concreti, delle visite pretridentine. Io credo che non si debba mettere in dubbio l'utilità della pubblicazione completa delle visite medievali e fino al Concilio di Trento, mentre dopo, per non naufragare nel mare magnum appunto di tutta questa mole di visite, penso che appunto occorra uno sforzo collettivo, che è quello poi a cui Monsignor Roger faceva riferimento come interesse dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Perché? Perché abbiamo visto che in Francia e in Germania, adesso non voglio dire appunto popoli civili per contrapporci eccetera eccetera, ma certamente popoli in cui si è sviluppato la ricerca storica non solo come ricerca artigianale del singolo, ma come impresa che tocca le comunità, sia ecclesiali che civili, ecco, la prima cosa che si è fatta già da decenni è di impostare almeno un inventario delle visite pastorali. Cioè, noi abbiamo qui decine di volumi, sia per la Germania, in particolare della scuola di Tubinga, sia per la Francia, nel gruppo che si è costituito intorno alla Revue d'Histoire dell'Église de France, ecco, sono pubblicate decine di volumi che ci dicono, in quell'archivio ci sono quelle visite che trattano di quegli anni, di quei posti, c'erano almeno la descrizione sommaria, insomma, che uno se si accosta a quei temi sa dove pescare. In Italia invece non abbiamo ancora nulla di questo. Per questo noi cominciamo come istituto storico nel 1981 un seminario a cui invitammo appunto il professor De Rosa, che è il protagonista, direi, in Italia di questo interesse per le visite pastorali, e che ha pubblicato una trentina di volumi all'incirca, dico grosso modo, insomma qui c'è l'elenco, di visite pastorali del Veneto dal secolo XVI al nostro secolo, dei tomoni enormi, che forse tra l'altro non sono stato l'ultimo elemento per il fallimento delle edizioni di storia e letteratura nel senso finanziario del termine, perché, ma che appunto costituiscono anche una cosa difficilmente manovrabile, cioè 30 volumi rappresentano soltanto una goccia nel mare delle visite e costituiscono invece lo sforzo di... E quindi il problema che ci siamo posti, ma su cui non voglio annoiarvi, era proprio questo, cioè di costituire qui a Trento, anche per, come città del Concilio, e mi ricordo anche del presidente primo, che fu poi anche il comune ispiratore delle nostre cose, Uberti Edin, lo storico del Concilio di Trento, di fare qui una banca dati computerizzata su questi problemi. Cioè, quello, l'idea è questa, poi non vi annoio, insomma, ecco, su questo ci stiamo lavorando da 10 anni, nell'85 abbiamo pubblicato anche un libro con modelli di questionario, eccetera, riuscire attraverso il computer a fare ciò che prima era impossibile, cioè a elaborare questi dati in modo tale che appunto la massa delle informazioni possa essere dominata con una serie di, appunto, con una gestione computerizzata dei dati. Ecco. Non vi so di, sto annoiare poi sulle traversie che questa impresa sta attraversando, il CNR sembra che invece di 170 milioni, non so, ne dia solo 7-8, quindi non è che le cose siano possibili a questo livello e cose di questo genere. Ma è perché in Italia, e concludo questa parte, manca proprio il senso, direi, del lavoro strumentale, e che invece, appunto, e torno qui alla nostra, al nostro volume, è fondamentale in questa pubblicazione ed è forse proporzionato, appunto, un po', anche se ci sono state deviazioni negli anni, al tempo impiegato nella pubblicazione. Quindi il problema è, il mio era solo questo, di distinguere appunto le visite prediventine dalle altre, dicendo appunto che sulle visite prediventine in ogni caso la pubblicazione integrale è, credo, la base del lavoro successivo. La visita appunto compiuta da Bernardo Clesio, non personalmente ma tramite i suoi delegati, nel 1537-38 è appunto l'oggetto di questa pubblicazione. La introduzione è di 128 pagine fitte, spiega insomma in qualche modo la figura del Bernardo Clesio come principe e come vescovo, collegandosi anche a recenti passi avanti che abbiamo compiuto tutti insieme, direi come comunità trentina, oserei dire, nel convegno su Clesio, in tutte queste cose che non sono state celebrazioni, ma sono state tutte anche accumulo di lavoro collettivo in questo senso. E quindi Cristoforetti ci presenta appunto la figura di Clesio, la figura dei suoi collaboratori, ci presenta anche appunto la visita come frutto quasi ultimo, penultimo di Clesio, insomma, dopo tentativi di fare qualcosa cominciati subito dopo il suo ingresso. Quindi, cioè, pensiamo che questa visita appunto del 37-38, pensiamo che dal 14 in qualche modo che Clesio pensa la visita, diciamo, in grosso modo, insomma. Aveva tante cose a cui pensare, per cui probabilmente non era il primo dei suoi pensieri, insomma, e tutti i problemi diplomatici e poi la guerra dei contadini, eccetera, eccetera, portano a questo rallentamento. Come dicevo prima, l'impianto a me sembra tipicamente medievale, come del resto mette in luce Cristoforetti nella sua introduzione, anche se appunto influssi del Lateranense V e altri, soprattutto a partire dall'incontro di Ratisbona, come giustamente sottolinea nel 1537, 524, mi pare, insomma, e cioè di questo incontro sollecitato da Ferdinando per l'inizio di una riforma della Chiesa nella Germania del Sud, insomma, nell'area alpina. Ecco, queste, diciamo, appunto, questa tendenza a una visita anche a Trento, che non fosse solo una visita del principe, fosse anche a fianco della visita del principe, una visita del vescovo, si vanno sempre più forte. Ecco, forse è da sottolineare proprio anche accanto alla, diciamo, a questo spiffero di aria fresca che si sente di interesse per la pastorale, e io credo si possa avvertire nella visita anche una sensibilità di tipo tedesco, ovviamente, data la vicinanza di Clesio a Fernando, anche dal punto di vista politico, ecco. Cioè, la visita è un fatto di ordine, di normalizzazione, di una riforma che non è solo spirituale, ma è anche, insomma, in qualche modo sociale, di fronte appunto ad un mondo luterano che si sta già muovendo. Qui è importante appunto l'accenno, credo, che Cristoforetti fa nell'introduzione al sistema delle visite che Lutero sviluppava già a partire appunto dal 1924-26, il sistema delle visite che sono, nel mondo luterano, visite già condotte, dirette dal principe, perché è il principe che si interessa appunto della disciplina ecclesiastica, e che in qualche modo non potevano appunto non influire anche sul principe vescovo di Trento, sia come timore appunto, sia anche, oserei quasi dire, come modello. Intendiamoci, lo dico con molti punti interrogativi, ecco, però era una la concorrenza che Clesio sentiva moltissimo di questa riorganizzazione che la Chiesa territoriale luterana si davano già, si stavano già dando negli stessi anni. Ecco, ma non vi voglio annoiare ulteriormente, perché sono stato, credo, fin troppo lungo, e ho, come ho detto, non occorre ripercorrere le 128 pagine di introduzione, né tantomeno appunto le pagine stesse della visita, che sono appunto corredate di un apparato di note a chiarimento dei punti appunto non chiari del manoscritto, dei nomi, insieme agli indici costituiscono l'indispensabile strumento per rendere leggibile un testo, altrimenti illeggibile. Avevo pensato di leggere insieme a caso con voi la visita a Malé, per dare l'esempio, potremmo sedere, ma penso che questo ruberebbe troppo tempo, insomma. In poche righe, insomma, è tutto un certo mondo che esce, naturalmente senza aspettarsi troppo, perché appunto, come diceva il museologo, non è che escono fuori i costumi, insomma, esce fuori, non molto, ma uno schizzo, ecco, di una comunità, dei problemi di rapporti tra i preti e i laici, che sono accennati e non verbalizzati. De aggravamentis hic inde inter clerum et populum exhibitis domini ipsa sed aveunt pro possibilitate sua. Cioè, i visitatori cercano di mettere la pace, ma si capisce che c'erano tensioni fra il clero e il popolo, quindi loro cercano di placare. Cum non sinta li cui importanzi ad notare minime decreri, cioè essendo popolo, ma dobbiamo accontentarci appunto di questi cieli. Ma questo solo principalmente per dare non ho nemmeno dato un esempio, è stato un accenno per dire come queste fonti diventano anche gustose proprio entrando appunto al loro interno. E la fonte che parla da se stessa è ora che è stata pubblicata e così, ecco, io credo che in qualche modo possa parlare ad alta voce, parlare a molti e non soltanto al pubblico ristretto degli specialisti che frequentano un archivio. Grazie. Grazie ancora. Veramente, insomma, ho sentito molto l'adempimento di quello che mi ripromettevo e chiedevo e speravo, no, di questa collaborazione dell'Istituto Italo-Germanico, che mi pare che in questo senso converge. Poi questa prospettiva che finalmente guarda queste cose fuori dall'orticello puramente clericale. E in grazia di questo noi stessi stiamo riscoprendo in mille maniere l'importanza e la rilevanza anche ecclesiale, che altrimenti rischiava quasi di sfuggirci in un quadro troppo ridotto e convenzionale.